Dicevo, mi fa piacere sentire Michele Pompei sulle frequenze di Radio Città Fujiko alla mattina. Adesso poi mi chiedo se succede tutti i giorni o meno, me ne sono accorto per sbaglio andando in giro in macchina. Ma così, intanto ascoltiamo dell'altra musica. Camelot for Jack and Jacqueline, but on the Che Guevara highway, filling up with gasoline. Fidel Castro's brother spies a rich lady who's crying over a luxury's disappointment, so he walks over and he's trying to sympathize with her, but he thinks that he should warn her that the third world is just around the corner. The Soviet Union, a scientist is blinded by the resumption of nuclear testing, and he is reminded that Dr. Robert Oppenheimer's optimism fell at the first hurdle. The cheese pavilion, and the only noise I hear is the sound of someone stacking chairs and mopping up spilled beer, and someone asking questions and basking in the light of the 15 fame-filled minutes of a fanzine writer. In pop and politics, he asks me what the use is. I offer him embarrassment and my usual excuses, while looking down the corridor out to where the van is waiting. I'm looking for the great leap forward. Sales are organized and pamphlets have been posted. Even after closing time, there's still parties to be hosted. You can be active with the activists or sleeping with the sleepers while you're waiting for the great leap forwards. Oh, one leap forwards, two leaps back. Will politics get me in a sack? Waiting for the great leap. Well, here comes the future and you can't run from it. You've got a blacklist, I want to be on it. Waiting for the right leap forward. Well, it's a mighty long way down rock and roll from top of the pops to drawing it down. You're waiting for the right leap forward. If no one out there understands, start your own revolution and cut out the middle man. Right, leap forward. A perfect world, we're all singing tune, but this is reality. So give us a run. Right, leap forward. So join the struggle while you make the revolution. It's just a t-shirt away. Era il fantastico Billy Bragg con Waiting for the Great Leap Forward, una canzone di boh, forse 20 anni fa, forse anche di più. E a proposito, Billy Bragg in teoria il 7 7 agosto dovrebbe suonare a Rimini. Se voi andate sul suo sito billybragg.co.uk ci sono indicazioni, anche se non ho ancora ben capito il prezzo del biglietto. Parte Madonna. I due minuti di Lonely hanno una durata percepita variabile. La pasta è molto facile da cuocere, ma non ad esempio per i tedeschi o per gli irlandesi, che non ne hanno la minima idea. Noi d'altro canto abbiamo qualche difficoltà nel preparare bistecche di cervo con la marmellata, più che altro per un blocco psicologico. Tutto è relativo, d'altronde ci piace fare il cazzo che ci pare. In questo siamo simili agli irlandesi. I tedeschi vedono un po' loro, sono poi cazzi loro. Basta che non vengano a rompere i maroni a casa mia, altrimenti chiamo la pulizia. Ma guarda te, se è possibile farci un piatto di pasta senza che arrivi un tedesco a mettere il naso. È una situazione intollerabile. Ma torna da dove sei venuto e magnate al cervo. È un coacervo di situazioni intollerabili. Mi chiedo se se ne può ancora. Mi rispondo che non se ne può più. Fottuti nazisti. Luigi, 34 anni, celebre, mutilesente, fisicaccio, appassionato di perni monconi, cerca donna odontotecnica anche in fallimento per avviare relazione basata sul feticismo. Camilla, 31 anni, bionda, febbricitante, fragile, alto, basso, cerca lettore contatori, Max, 42enne, intenzionato ad aprire un negozio in franchising di cartucce inchiostro ricaricate sulle isole Aran. Scevro da ogni pregiudizio, ti desidero così come sei. Hai mai guardato una cacca di cane pensando alla vita brulicante di batteri che in essa si nasconde? Il miracolo della vita appartiene a me, a te, ai coguari e alle limule. Scrivimi un messaggio con il tuo sangue e ti risponderò con il mio mucco. Impiegato quarantenne, cerca donna anche sessantenne, anche vedova, anche sposata, anche uomo, per condividere una vita vuota e monotona. Scambio 177 punti COP con finestrino Prince. Scambio confezione Pongo come nuova con una scatola di tonno star all'erba cipollina. Scambio intera discografia di Mietta con numeri civici in metallo, eccetto il 3 ed il 7, di qualsiasi misura. Già finito? Questa 187esima puntata di Coxo Spaziale si fregia anche del rumore del mare di Santa Margherita nel golfo di Policastro. Come sentite, i bambini disturbano il sottofondo, ma io, per quelli che sono ancora a Bologna, vi volevo ricordare che è ancora visitabile la mostra di Maurizio Finotto al Mambo. Io non l'ho ancora vista, ma la andrò a vedere non appena ritorno da queste vacanze, e anche naturalmente quella di Christian Boltanski, che ha inaugurato non molto tempo fa. Diciamo che questa non è proprio un angolo della menzione, ma è qualcosa di simile. In realtà continua anche il programma del Cinema Sotto le Stelle, se non sbaglio fino al 12 agosto, ma lo controlleremo. Vi ricordo che questa puntata non è in diretta, bensì registrata dagli studi di Santa Marina di Policastro. From now, I'm 120 pounds, and I never get hung over because I will be the picture of discipline, never minding what state I'm in, and I will be someone I admire. And it's funny how I imagined that I would be that person now, but it does not seem to have happened. Maybe I've just forgotten how to see that I'm not exactly the person that I thought I'd be. And in my mind, in the far away here and now, I've become in control somehow, and I never lose my wallet because I will be the picture of discipline, never fucking up anything, impulsive driver. And it's funny how I imagined that I would be that person now, but it does not seem to have happened. Maybe I've just forgotten how to see that I'll never be the person that I thought I'd be. And in my mind, when I'm old, I am beautiful, planting tulips and vegetables, which I will mindfully watch over. Not like me now, I'm so busy with everything that I don't look at anything. But I'm sure I'll look when I'm older. And it's funny how I imagine that I could be that person now, but that's not what I want. If that's what I wanted, then I'd be giving up somehow. How strange to see that I don't want to be the person that I want to be. Imagine so many things, things that aren't really happening. And when they put me in the ground, I'll start pounding the lid, saying I haven't finished yet. I still have a tattoo to get that says I'm living in the moment. And it's funny how I imagine that I could win this fight, but maybe it isn't all that funny that I've been fighting all my life. But maybe I have to think it's funny if I wanna live before I die. And maybe it's funniest of all to think I'll die before I actually see that I am exactly the person that I want. Questa era Amanda Palmer con In My Mind. Adesso invece andiamo a ricordare David Bowie, scomparso da poco tempo, troppo poco tempo, ci fa ancora male pensarlo, e con una cover di David Fonseca, Life on Mars con Antonio Zambuglia. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through a sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eye. The freakiest show. Take a look at the woman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he America's tall toothbrow. That Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million horns, from Ibiza to the Norfolk Cross. Rule Britannia is out of bounds. To my mother, my dog, and clowns. But the field is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be read again, as I Salve a tutti, sono Pino Boresta e sto ascoltando Coxo Spaziale. When it's all over and my time is at hand, I wanna go out the way I began. Satin and cedar, what is that worth? Just strip me down, give me back to this earth. 'Cause ashes are ashes and dirt is dirt. I'll be a memory, so how can it hurt to break down and build up and bear some fruit? Oh, wrap me up in a mushroom suit. In her baby blue dress, she's looking so peaceful, but her family's a mess. They came from all over, but who knows what for, 'cause the person they loved isn't here anymore. 'Cause ashes are ashes and dirt is dirt. I'll be a memory, so how can it hurt to break down and build up and bear some fruit? All wrap me up in a mushroom suit. Yeah, wrap in a mushroom and dirt is dirt. I'll be a memory, so how can it hurt to break down and build up, and bear some fruit. I'll wrap me up in a mushroom suit. Ashes are ashes and dirt is dirt. I'll be a memory, so how can it hurt to break down and build up and bear some fruit? I'll wrap me up in a mushroom suit. Yeah, wrap me up in a mushroom suit. I'll wrap me up in a mushroom suit. Zach Jones and the Tricky Bits, questa era Mushroom Suit, e non so se avete notato, probabilmente no, ma all'interno di questa canzone c'erano i fantastici cori della mia amata Jenny Owen Youngs, che adesso ascoltiamo di nuovo con la versione acustica di Pirates. Somewhere private, I don't wanna make a scene, I just wanna leave and head back to your place, cause I got a roommate and he don't wanna hear or see what you're doing to me. Don't make me better, but you don't make me worse. I'll keep coming back. Numb's no good, but it sure beats the hurt, beats the hurt, beats the hurt. Bandages and nice neat bows. Hell no, you have to just go. go, go, go, go, oh, oh, I'll keep coming back. You don't make me better, but you don't make me worse. Non l'ascolterò mai. Stai ascoltando Coxo Spaziali, la rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. Caro Babbo Natale, sono ancora in tempo per mandarti la mia letterina. Quest'anno mi sono impegnato con tutte le mie forze e perciò penso proprio di meritare quello che ti chiedo. Forse non riuscirai a portarmi tutto, ma so che ti sbatterai e che farai del tuo meglio. Una premessa, questa letterina non è solo per me, ma visto che a Natale siamo tutti più buoni, ho pensato di utilizzarti per fare dei pensierini alle persone più care. Cominciamo. Per tutti gli amici di Bassano del Grappa, un pigiama in pile di quelli che fanno le scintille appena li tocchi, indispensabile per una città dalle temperature polari e un po' triste. Agli ascoltatori di Coxo, una deliziosa coccinella portapillole in metallo laccato. Potranno metterci dentro le sostanze abituali che usano per sopportare un'ora di questa trasmissione. A Fedra un bikini in finta renna, utilissimo per portare con sé lo spirito natalizio anche ai Caraibi. A Pasquini ancora non ho deciso, lui ha già tutto, perciò direi niente. Sì, niente è l'unica cosa che gli manca, quindi vada per il niente, mi raccomando, in una bella confezione. E per me, perché alla fine anche per me è Natale, ti lascio libertà di scelta. L'unica accortezza che ti chiedo è che non deve essere qualcosa che mi serve, ma qualcosa che voglio. Ringraziamo il caro Zino, questa era una puntata replica. Era una replica di una delle sue puntate. E ascoltiamoci. Cosa ci ascoltiamo? Ascoltiamoci della musica che ogni tanto ci arriva per email. Questi sono i voicemail e il pezzo si chiama My Team. I only read my team. No, I said I'm loyal, but they don't know the meaning. Yeah. You see them when the up is up, but when it's down, you don't see them. I represent my team. My team, me, I rep. My team, me, I rep. My team, me, I rep. My team, me, I rep. I represent my team. So which team, me, I rep? Which team, me, I rep? Which team, me, I rep? I represent my anytime team. I rise, my team up a rise too. And if my plate nice for them plate, I feel nice too. Cause loyalty is all I know. So if I rise up, they gotta grow. Oh, oh. My team, real gen of them. Close to me heart, yeah, real bread of them. Now run take over like dry weather friends. Yeah, true to the team, genuine win lead of them. If we rise, then we rise together. If one fall, then we help the other. None of them have no dirty heart, so we stay from the start. So let me tell you about ya, let me tell you about ya. Only real about ya, let me tell you about ya. Let me tell you about ya, only real about ya. Let me tell you about ya, let me tell you about ya. Only real about ya, let me tell you about ya. Only real about ya. I represent my team. My team me I rep. My team me I rep. My team me I rep. My team me I rep. I represent my team. So which team me I rep? Which team me I rep? Which team me I rep? I represent my team. So who never with me? When the team turn up, nobody link me. When the team roll out and a 10 and a 20, a 50 stronger road with me. No for them not go like we, eh. Them a go say we change. But we not do this, we see a one piece. By smell of every day. So them can't stop this, stop this, stop this. We try to tell them every day. Them not go stop this, stop this, stop this. My team a go always reveal. Let's go. My loyalty never go shame. So get that in your head. So let me tell you, boy, yeah. Let me tell you, boy, yeah. Only real boy, yeah. Let me tell you, round, yeah. Let me tell you, round, yeah. I only real the round, yeah. Let me tell you, boy, yeah. Let me tell you, boy, yeah. Only real boy, yeah. Let me tell you, round, yeah. Only real round, yeah. I represent my team. My team, me, I rep. My team, me, I rep. My team, me, I rep. My team, me, I rep. I represent my team. So which team, me, I rep? Which team, me, I rep? Which team, me, I rep? Which team you are at? I represent my team. Oh, my team you are at? Oh, my team you are at? My team you are at? My team you are at? I represent my team. So which team you are at? Which team you are at? Which team you are at? Which team you are at? I represent my team. Alla fa. Bene. Yumi. Dobbiamo fare i saluti finali di Coxo Spaziale. Cosa vuoi? No, aspetta un attimo. Cosa vuoi dirmi? Buone vacanze a tutti e ciao. Ci vediamo al prossimo episodio. Venerdì prossimo. Venerdì prossimo volevo, se ci riesco, se ho abbastanza tempo, fare uno speciale su Pino Boresta. Bene. Bene. Sei contenta? Lo ascolterai? No. Questa era Coxo Spaziale, saluti a tutti e ci vediamo, sì, forse venerdì prossimo. Ciao. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Você abusou, tirou partido de mim. Tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou. Que me perdoe. Mais je suis seul dans l'univers. J'ai peur du ciel et de l'hiver. J'ai peur des fous et de la guerre. J'ai peur du temps qui passe. Dire comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Você abusou, tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou. Que me perdoe. Mas l'amour dont on a parlé, cet amour que l'on a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace. Dire comment peut-on vivre sans lui, sous quelle étoile, dans quel pays. Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Você abusou, tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou. Que me perdoe. Mais j'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté, d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace. Dire est-ce que je dois montrer les dents, est-ce que je dois baisser les bras. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Você abusou, tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche. Un oiseau d'un peu de chasse et de pêche. Un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche. L'oiseau d'aller plus haut.